Dedichiamo un breve spazio all'ERPI, ovvero all'Esercito Rivoluzionario del Popolo Insorgente. Informazioni si possono prendere e reperire anche sul sito dell'organizzazione ufficiale, che è www.ellace-erpi.org. L'ERPI è un'organizzazione politico-militare che è radicata nello stato di Guerrero, che sta a sud della città del Messico, in una zona con forte presenza indigena, con precedenti guerriglie che si sono sviluppate in questo territorio, fra le quali ricordiamo la guerriglia di Lucio Cavagnas e Genaro Vázquez. L'ERPI è una scissione dell'EPR, l'EPR è l'Esercito Popolare Rivoluzionario, e l'ERPI è una scissione che nel gennaio del 98, almeno questa è la data in cui si viene a sapere pubblicamente di questa scissione. L'ERPI subisce una forte influenza del pensiero zapatista e si legge nel suo statuto, nelle sue rivendicazioni, un interesse alla base, alle comunità, alle decisioni orizzontali, nella misura in cui sono possibili in un'organizzazione clandestina politico-militare. L'ERPI dichiara che fa fronte allo Stato, al sistema, con tutti i mezzi, ovvero dal fucile alla penna, dall'organizzazione politico-sociale a quella appunto militare, con l'obiettivo di rovesciare il sistema neoliberista e capitalista dello Stato messicano e senza un progetto già definito di potere alternativo a quello vigente. L'ERPI infatti dice che spetterà al popolo e dal basso e dalle organizzazioni di base decidere quale sarà il destino nella nazione messicana una volta liberata dal gioco capitalista. Notizie recenti sull'ERPI è stato quando in giugno l'esercito si è infiltrato, quindi avanzarono nelle montagne che sono la base dell'ERPI, e l'ERPI respinge questo attacco militare ammazzando 3 militari, difendendo quindi il suo territorio. Ovviamente nella stampa ufficiale non è uscita questa notizia, ma si legge attraverso i comunicati appunto dell'organizzazione. Ci sono altre notizie che riguardano l'ERPI abbastanza recenti: la liberazione dei compagni Jacobo Silva e Gloria Arenas, rispettivamente comandante Antonio e comandante Aurora. Sono stati arrestati 10 anni fa, nell'ottobre del 1999, per appartenere appunto all'esercito rivoluzionario del popolo insorgente. Sono stati torturati e messi in carcere di massima sicurezza, però la vicenda di Jacobo e Gloria è emblematica della continuità della lotta dalla montagna, dalla clandestinità, a quella fatta dal fronte civile e nelle strade, nelle città, nelle campagne. Sono stati arrestati, accusati di vari reati, però loro si sono appellati all'articolo 139 del codice penale, che dice che non sono crimini i reati compiuti da un combattente ribelle in battaglia. E hanno fatto leva su questo e quindi sono riusciti a scaricarsi l'accusa di omicidio avvenuto appunto durante un agguato fatto alle truppe militari. Jacobo e Gloria si sono sempre rivendicati d'appartenenza quindi all'ERPI, e quindi essendo accusati di associazione sovversiva sono riconosciuti dallo Stato stesso come ribelli e quindi non sono crimini i reati compiuti durante un combattimento. Grazie a questo sono potuti uscire. Jacobo e Gloria già da dentro la carcere hanno aderito alla otra campagna promossa dalle ZLN, ritenendola una nuova trincea in continuità con la lotta armata. Loro, appena usciti di galera, hanno dichiarato che non sono assolutamente pentiti della scelta armata che hanno fatto e che ora entrano nella lotta civile solo perché bruciati dall'arresto. Quindi non rinnegano il passato e dicono che la loro nuova selva sarà il movimento. Jacobo e Gloria sono un esempio di tenacia, coerenza e lotta per molti messicani e messicane.